Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Buona domenica e benvenuti a questa nuova puntata di Voice Anatomy. Dopo un'annata con tantissimi ospiti e amici che ci hanno fatto compagnia di domenica, in domenica a luglio abbiamo scelto di riascoltare con voi alcune delle interviste più belle, dei racconti più divertenti, ma anche delle canzoni o delle prove di recitazione che abbiamo registrato qui, proprio negli studi di Radio 24, insieme ai nostri ospiti. Allora cominciamo subito con questo concentrato di Voice Anatomy. L'abbiamo pensata proprio come una spremuta dissetante per la vostra estate. Voice Anatomy. Già al mio fianco c'è il nostro primo ospite, un attore e doppiatore straordinario, che è Fabrizio Temperini, che saluto. Ciao, e Pino. Ringrazio. Ciao, la voce di Michael Emerson, il Finch di Person of Interest e di Lost, anche direttore di doppiaggio di tutto questo e di quant'altro. Con lui faremo un bellissimo percorso. Ma intanto sentiamoci un Fabrizio Temperini d'annata, di apostrofo annata ovviamente. Tu, beh, la prima grossa soddisfazione ne hai avute tante, perché però fare George Clooney, quando ancora George Clooney era all'inizio, ma soprattutto nella serie forse più importante, una delle madri, sì, di tutte, sì, le, sì, serie. Questo George Clooney che ha fatto innamorare tutte le donne italiane, no? Ah, ma c'era la voce tua, però. Certo. Ma tu ci hai provato questa storia mai a dare una ricetta? No. Dopo te la faccio da, però. No, vabbè, poi c'è mia moglie all'ascolto. Sì, no, vabbè, che c'è, era già moglie all'epoca, no, di George Clooney, e allora no, si può dire. Tu ricordati sempre i tempi quando parliamo di queste i cose. I riferimenti temporali. Esatto, il riferimento temporale. Ascoltiamoci allora un giovane Fabrizio Temperini su Josh Clooney. AR D5NS, Michael D'Estrosio. 600 di acetil salicilico. L'aspirina, porca, mi scordo sempre l'aspirina. Beh, è andata così. Lei attacca dicendo: non lo sapevo che voi pediatri foste tanto sexy. E io le faccio: bimba, non ho ancora visto niente. Molto bene, fammi una flebo, ne ho proprio un gran bisogno. Sto giù, Doug, lasciami lavorare. Oh, come sta la tua strepitosa mogliettina? Sta benone. Bene, avete risolto il problema? Sì, sì, il problema è risolto. Tu non lo puoi lasciare il pronto soccorso. Beh, dai, anche te non sei cambiato tanto vocalmente. No, vabbè, sì, insomma, un po' sì. Pensa che questa è la prima scena. Sì, questa è la prima puntata. Non solo, ma quella era la scena dove io feci il provino. E questa cosa di Ciccio fu una cosa che mi inventai io, perché lui non ce l'aveva. Però lui aveva questa cadenza ogni volta che si rivolgeva al suo amico Green. E quindi io mi inventai questa cosa di chi era il direttore di doppiaggio? Era Gianni Galassi. Gianni Galassi, che è tuttora vivente. Accidenti. Che bravo. Sì, sì, ottimo, anzi, ottimo, straordinario. Sì, bravo, anche bravo. E lì poi lì si creò quelle cose magiche che succedono sempre. Questo gruppo unito di noi interpreti. In realtà ci siamo lasciati prendere tutto questo gioco entusiasmante. E poi Clooney era veramente, era diverso dagli altri, perché lui aveva questo modo di recitare che io intendevo sempre molto di nuca, perché lui era sempre un po' chinato con la testa e guardava di sotticchi. Hai capito? Le donne, le cose, capito? Lo faccio io, sembriamo e te siamo due gobbi, e invece lo fa lui, che ne particolare, capito com'è? Vabbè, la grande personalità già si leggeva da lì, insomma, sì, che sarebbe, sì, diventato. Io poi una volta ho avuto modo di parlarci e siamo rimasti tutte e due abbastanza, mi è successo una volta, ci siamo parlati, lui ha realmente la voce identica alla mia. Infatti lui mi ha guardato per prima e ha detto: ma non è possibile questa cosa. Detto, Perché non mi leggi con un po' di Josh Clooney come si cura la sinusite? Lo so, è una lo cosa. Lo so, me lo dovevo aspettare. Lo so, dovevi aspettarti. Anzi, grazie al cielo che sia andata così. Però prima partiamo con la sigla di AR. Vai. Professore, professore, c'è un caso di sinusite, come possiamo curarla? Molte infezioni dei seni paranasali si risolvono con misure di automedicazione e trattamenti medici. In caso di frequenti recidive si dovrà escludere la presenza di cause come i polipi nasali o altro, come le allergie. Però, caro, i medici possono prescrivere degli antibiotici da assumere per via orale per curare i casi di sinusite con presunta origine batterica. Secondo alcune linee guida, l'antibiotico andrebbe somministrato per 14 giorni, quando si tratta di sinusite cronica, fino a quando il paziente non è libero dai sintomi, per almeno 7 giorni. Se dopo 5 giorni di terapia non si rivelano miglioramenti, è bene cambiare antibiotico. Non ha invece dimostrato l'utilità dei mucolitici o degli espettoranti. Dottore, grazie. Si porti un'altra ricetta, perché fa piacere anche con queste cose cure vere. Non ha detto nomi di medicinali, perché non non avremmo potuto fare. Fabrizio, tu quando hai cominciato col doppiaggio? Hai cominciato come attore? Perché poi ho cominciato con l'accademia, il teatro. Tu hai fatto l'accademia? Sì, vero. Il teatro che ho fatto, che ho avuto la fortuna di fare con dei grandi, tipo Tino Boazzelli, Giancarlo Sbragia, insomma grandi del passato che mi hanno insegnato molto. E quindi, insomma, appartengo a quell'ondata lì, e avevamo dei grandi maestri. Poi sì, noi... perché prima chi voleva fare l'attore era chi veramente voleva fare l'attore, sì, non cercava scorciatoie di fama o di soldi o cosa, no, voleva fare l'attore. Anzi, devo dire, in maniera, no, tu mi puoi capire, perché ne hai fatte tante, veramente, come si dice, più di Carlo in Francia. In realtà più si soffriva da un certo punto di vista, meglio era. Certo. Certo. No? Si facevano queste prove lunghissime, 10 ore di prove, 12 paghe ore. Paghe non si sapeva. Paghe niente, cappuccini e brioche. È come l'esame di maturità, dai camici, però li ricordo, è bello. Sì. Allora, io devo dire una cosa che Pino sa che io voglio dire. Io l'ho conosciuto quando lui ha iniziato, l'ho veramente conosciuto, che era un giovane a caccia di parti, diciamo, sì, così, parti nel senso da interpretare. E io poche volte nella mia vita ho visto una voglia, una fame di esserci, di fare, che se i giovani di oggi avessero un decimo sarebbe già molto. Pino, veramente, da questo punto di vista è straordinario. Ti ringrazio, io invece ringrazio voi, perché avete saputo ascoltare una voce che urlava di un ragazzo giovane che cercava spazio in maniera educata, ovviamente, cose che dovrebbero fare. La cosa che poi che dico sempre anch'io, e che dici anche tu ai tuoi ragazzi, eccetera, è quello, l'occhio della tigre, come dice Rocky Balboa, cioè la voglia, l'entusiasmo, ricominciare da capo ogni giorno, entrare in sala di doppiaggio o su un palcoscenico come se fosse la prima volta, non l'ultima, perché magari arriverà quel giorno che sia proprio l'ultima, per cui è meglio la prima. Ed è tutto là, l'entusiasmo di un bambino, sennò è finita. Questa vita è una bella passeggiata. Sì, perché sennò anche pensa anche al doppiaggio. Hai già no? fatto se non c'è tutto, no? La passione, se non c'è la voglia, il tradurre queste emozioni che arrivano in una lingua diversa, nei nostri fonemi, altrimenti sarebbe solo leggere delle parole. Non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Ma fra un po' forse cominceremo pure a fare una cosa insieme quest'estate, una cosa dove ho dovuto urlare più volte Roma. Esatto. E lui mi ha chiamato apposta. Esatto. Perché lui è della Roma, io della Lazio. Però parliamo della Britannia, dell'antica Roma. È vero, però lì sono i romani. Però quello è sulla Britannia. L'ha fatta apposta nel trailer. Cercate questo trailer sulla Britannia e capire. Anzi, la prossima volta vi farò dire forza Roma. Non c'era quel periodo. Senti, ascoltiamo un'altra cosa molto interessante. Tu hai diretto, finita poi la serie, bellissima, Person of Interest. Devo dire, una serie bellissima, la sono vista tutta e l'ho amata. E tu eri il protagonista, insomma, il co-protagonista, perché Finch è colui che porta sotto braccio, Jim Caviezel lo trascina in questo mondo. E allora questo Michael Emerson ce lo ascoltiamo in Person of Interest, e poi dopo all'altro blocco ce lo ascoltiamo in Lost, che è lo stesso attore che tu hai seguito in Lost. Seguiamolo con Person of Interest, questo Michael Emerson con la voce di Fabrizio Temperini. Pig greco, qualcuno sa dirmi cosa significa? No? Mi accontento anche di una domanda intelligente. Sì? Una mia amica ha una domanda. A cosa diavolo ci può servire saperlo e quando mai lo useremo? Ora ve lo spiego. Pi greco. Il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio, e questo è solo l'inizio. Potrebbe proseguire all'infinito, ma senza mai una sola ripetizione. E questo significa che all'interno di questa serie di decimali è contenuto ogni altro singolo numero. La vostra data di nascita, la combinazione del vostro armadietto, il numero di previdenza sociale. Sono tutti qui da qualche parte. Certo, vedevi quella serie e ti spaventavi. Sì. Ti spaventi davvero, che poi è reale. Da un certo punto è tutto reale. Tutto reale. Il famoso grande fratello, no? Quest'occhio, esatto, che ci qui fa paura veramente. Sa tutto di noi, insomma. Ed è interessantissimo. L'hai fatto per tutti questi professori, c'è niente da fare. No, mi vai da un dottore a un professore, no. Un disgraziato, no. Sì, no. No, come no? Ho fatto disgraziati. Certo, assolutamente. Mi voglio sentire anche il Michael Emerson di Lost. Me lo fate sentire, per favore? Ciao, Benjamin. Ciao, John. Gli altri sono già tutti dentro? Dovrebbero esserci quasi tutti, sì. Mi dispiace per quello che ti ho fatto, John. Sono stato egoista, invidioso. Volevo tutto quello che avevi tu. E che cosa avevo? Tu eri speciale, John. E io no. Se può confortarti, Ben, io ti perdono. Grazie, John. Sì, mi conforta. Non immagini quanto significhi per me. Che cosa farai adesso? Devo ancora sistemare un paio di faccende e resterò qui per un po'. E poi tanta anche cinema. Cinema, fiction, televisione. Tutto. Sì, un film che credo è un film dei più replicati in televisione dopo Ben Hur, che è Chewing Gum. Ah, Chewing Gum, che come credo no, che certo. Passa, credo, 10 volte l'anno. Di Biagio Proietti. Di Biagio è vero. Proietti, dove ci siamo un po' di noi, cioè, ci sono io, c'è Luca Ward. Sì, siamo... Ah, sì, è vero, c'è anche Luchino. C'è Ciavarro. C'aveva già la voce così, Luca, già, sì, già sì, io ho detto, sì, sempre stava così. Sempre. Al suo segnale, sempre. Mara Venier, che era la anche lei parlava così. No, ma no. Che era la professoressa Isabella Ferrari. C'erano erano quei film giovanili. E poi il professor Giancarlo Russo in Una donna per amico, per esempio, in televisione, no? Sì. Incantesimo 5 nel ruolo di Orazio Cusaro. E La stagione dei delitti nel ruolo del commissario Biavo. Ma hai fatto le cose? Ho fatto. Io considero ancora, per quello che tu dicevi prima, la voglia di fare, considero un miracolo. Cioè io ho iniziato a fare questo mestiere che avevo 18 anni e ho sempre fatto solo questo lavoro, non ne ho fatti altri. E ho vissuto anche in maniera dignitosa. Sì, lo considero un miracolo. Quindi i miracoli avvengono, questo lo dico per i ragazzi. Esatto, questo è quello che volevo chiederti. Lo stai dicendo poi dall'inizio, nel senso quello che uno deve, un consiglio che dà agli altri è sempre questo, l'entusiasmo, la voglia, rimettersi in discussione ogni volta. Ce la si fa. Ma sì, si fa. Si fa. Bravo. Evitando le scorciatoie, faticando. Bravo. Tu lo sai, sì, tu sei sì, un sì. Faticatore. E così deve essere, un bel mediano a centrocampo. Beh. Adesso hanno trovato la bella musica di Personal Interest. Fammelo questo incipit perché è bellissimo. Eccolo. Quando vuoi. Siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa. Crimini violenti che coinvolgono persone comuni, persone come voi. Crimini che il governo considera irrilevanti e poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io. Ma mi serviva un socio, qualcuno con le capacità per intervenire. Le autorità ci danno la caccia, lavoriamo in incognito. Non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi. Ma che bello! Tu sai alla gente quanto ama il doppiaggio. Che poi bisogna convincere sempre ogni volta che non basta la bella voce, ma bisogna essere degli attori di base. Ma quanto lo ama? Beh, sì. Se c'è una tavolata. C'è un doppiatore, si parla di quello, come se c'è un medico, uguale. Si parla, io mi sento come, esatto, che esatto, mi dai. Esatto. È così un doppiatore. Per cui sentire queste cose, mi entusiasmo io ancora, sentire live una cosa, conosco te, conosco la serie, eppure rimango lo so. Piacevolmente stupito e io affascinato. Sai cos'è che lo dico quando appunto me lo chiedono persone estranee al lavoro? Dico sempre, ma in realtà, ce l'abbiamo anche un po' accennato prima, mm-hmm. In realtà noi dobbiamo entrare in quelle che sono le dinamiche, i contrasti affettivi del lavoro, del personaggio, della dimensione, perché sono quelli che poi ci aiutano a risolvere da un punto di vista artistico il personaggio, perché sennò sarebbe uno spigheraggio. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo con il meglio di Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. Adesso un'attrice comica, perché poi è sempre difficile. Una donna, è difficile che sia comica. Che una donna quando si trasforma perde la sua femminilità e cioè deve essere brutta. Deve essere, perché non una donna è, che non è vero. No, lo so, tu non è il tuo caso, no, però normalmente nella storia della comicità, sì. Nella storia comicità una donna che fa magari una parte da ubriaca non fa ridere. Una parte che fa l'uomo che fa il gay è divertente, una donna che fa la lesbica magari no. Cioè, avete meno possibilità, meno sfaccettature da quel punto di vista. Barbara Foria, signori. Ecco, dopo tutte quelle, le hai menzionate tutte e poi hai detto Barbara Foria. Esatto, ho sbagliato? No, però, un po' è vero, un po' però secondo me più tempo fa, perché sì, adesso ci sono adesso delle è stata sdoganata, è un po' sdoganata la cosa, certo. Imitatrici, cosa che prima non c'era, no? Sì. C'era l'imitatore e ce n'era uno magari. Beh, poi resta un po' nell'immaginario comunque italiano collettivo il comico che deve essere uomo, quindi comunque facciamo un po' più fatica, devo dire. Però secondo me quando mi domandano sempre che qual è la tua arte, così per me o fai ridere o non fai ridere, non c'è una via esatto. di mezzo. Cioè, quello che dico sempre, sai, questa è una comicità moderna, ma fa ridere? No, non è comicità. No. Fa piangere? Allora è drammatico, ma non esiste differenziazione di quello. È buono, com'è sto piatto? È buono o non è sì, buono? Sì, infatti, dicono i comici del nord o i comici del sud, no. Le donne o gli uomini, no. Giovani, bambini, l'arche Noè. Ho detto no, basta che fa ridere. Tu Foria nasci a Napoli? Io nasco a Nacqui, io modestamente lo nacqui a Napoli. Nacqui a Napoli, non so la data, non me l'hanno 1975. Messa. 1975? Nel 75? Sì. Oh, Barbara è un avvocato. E mestiere, poi hai deciso di abbandonare. Sì, in realtà sì. Passando dalle arringhe in aula a quelle teatrali col tuo repertorio. L'hai riportata questa esperienza nei tuoi sketch? Non ancora, sai, volevo fare il personaggio di qualche avvocato un po' azzeccagarbugli, però non l'ho fatto perché io faccio la monologhista, quindi in realtà racconto un po' della vita, diciamo, faccio una satira sociale, se la vogliamo dire così, però questa sul personale no, non l'ho ancora fatto. Lo posso fare, sì. Certo. C'è un regista d'eccezione al tuo fianco, dopo lo diremo, non adesso. Non no. adesso che sembra, no. Sennò, però sembra fatto apposta, invece non è fatto no, apposta. No, non è fatto apposta, che la sto cercando da mesi ogni volta. Barbara, puoi, dove stai? Sto in tournée, sto a Verona, non sto, mo stai qui. Sto qui. Stai qui, stai pure da altre parti. Resto con te. Ehi, piccola. Questa bimbo. Facciata romantica non la conoscevo. Ma mi dicevano più da porca, non è da romantica. Da porca, è vero, tu sei più da... Non ti permettere, sono romantica. No, non parlo di Barbara Foria, la donna, parlo di questa voce che hai buttato lì. Sì, un po'... Non era sensuale, era proprio... Sì, dopo l'una, capito? No. Infatti volevo sempre fare dei programmi notturni, perché... No, lo sai che io ho provato di entrare alla Silvio D'Amico e prima di iscrivermi a giurisprudenza. Poi ha visto Schicchi? No. No, ho conosciuto l'ex moglie, lui no. Ma... e non mi presero, ricordo all'esame che portai Uburua, si dice così, Uburé. E perché ridi per la pronuncia? No, era giusta. Era giusta, mi no. Mi fai dire tu che ti presenti con Uburua. No, io no, perché poi li ho odiati tutti, comunque quelli dell'Accademia. Non, cioè, no, nel senso che ci fu questo insegnante di canto che mi disse: ma lei ha sempre avuto questa voce, questo timbro di voce? Ho detto: non lo so, forse dal primo. Non mi ricordo, dovrei chiedere ai miei genitori appena sono nati in sala parto, che ne saggio. E invece questa voce è stata proprio la mia forza. Perché è bella perché poi varia, insomma, non è una voce che rimane lingolata, sì. O quella che è di petto. Hai detto questa parola bella, mi sono emozionata. Sì, la voce può succedere, non è ingolata. Ecco, ingolata, vedi? Ingolata, chi te se ingola? Senti, come fai di queste cose? Vabbè che c'è Cruciani a Radio 24, ma non posso. Ah, c'è Cruciani non adesso, qui? No, ah, non qui, ecco, però volevo c'è. Dire due cosine. No, sta buona pure tu. Sentiamo un po' qualcosa sugli uomini che cambiano dopo il matrimonio, va bene? Sentiamola un po', Barbara, prima che cosa ha da dirci. E che a noi donne fin da piccole ci hanno fatto credere al matrimonio come una favola, è vero? Fin da piccole ce l'hanno detto, ma nessuno ci ha detto che è una favola al contrario. Inizia con e vissero felici e contenti, ma poi finisce con c'era una volta. L'unica favola dove il principe si trasforma in rospo, non si è più cacchi di farlo ritornare principe. Il matrimonio cambia le persone, sì. Secondo me ci mettono qualcosa in dei confetti, sono convinta e stufata, perché altrimenti non si spiega. Io ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Io ho visto fidanzati, copie di Brad Pitt dopo il matrimonio diventare dei ragionieri calvi Io ho visto veramente dei poeti baudelaireani che prima ti recitavano poesie e dopo il matrimonio recitarti in un solo rutto, dopo 10 birre, tutta la formazione del Catania. Perché è così, il matrimonio proprio ti cambia, solo che noi donne siamo delle romantiche. A 20 anni aspettiamo sognanti il principe azzurro con la carrozza. A 30 ci accontentiamo del principe azzurro, giallo, rosso come è. A 40 anni si sale sulla prima carrozza che passa. E poi donne, noi uomini siamo veramente il bersaglio più... Mi diverto a parlare, diciamo, ho iniziato un po' questo filone per caso, però parlando prima di me, poi delle coppie, perché di un mio ex fidanzato, e poi mi diverto a raccontare, diciamo, questo mondo. Un po' le donne si identificano, ma anche gli uomini. Sì, è vero, perché poi si riconoscono, fanno finta di non conoscere se stessi, ma un amico. Sì, è sì, vero, sì. Cioè, Marco è così, sì, Marco sì, è così, anche no, Giacomo è così. No, ma mi scrivono una mail anche, diciamo, non solo donne che dicono conosci mio marito, e quindi esatto, questa cosa... conosci mio marito non è male. Sì. Ma l'ultimo, se razionalizzi, è il mondo, è quello. Ma sì, un po' sì, io esaspero, poi dopo siamo diversi tutti quanti, eccetera, ma poi razionalmente è quello. Poi una donna, noi ci dimentichiamo, una donna ha le sinapsi unite, destra e sinistra dell'emisfero cranico, è unito, il nostro no. Senti, un'altra bella cosa. Tu, io mi ricordo questo perfettamente su Rai 3, ho cominciato col personaggio fisso a Tintoria. Tintoria è stata un'esperienza stupenda, fatta a Napoli, quindi a Fuorigorotta, e da lì un po'. Poi io prima però avevo fatto La Sai l'ultima, pensa te. Ah, hai fatto la barzellettiera? Sì, sì, sono stata una barzellettiera. Dimmi una barzelletta, te ne viene in mente una? Qualcuna di quelle che era una napoletana, c'era questa signora, diciamo, a Napoli, che, con tanti figli, che li fa sedere. Giuseppe, tu siete da casa, siete di qua, tu siete di qua. Allora c'è un signore di fronte, resta solo il bambino più piccolo in piedi, al signore di fronte che legge il giornale, così lo va a tirare e dice: signor, ha detto mamma, se chiudete un poco le gambe c'è spazio pure per me. Questo signore niente. La seconda volta dice: signor, ha detto mamma, come si sono seduti i miei fratellini, se chiudete un poco pure voi le gambe mi posso sedere pure io. E questo niente. La terza volta: signor, si scoccia il signore e dice: guaglio, dice a tua madre che se lei chiudeva le gambe a questo lo stavamo tutte quante più larghe. Carina, bellissima. Mi dispiace, c'è l'applauso. No, penso... di là Valerio pure l'ha capita che è tutto. Ah, di... sì, l'ha capita. Sta ridendo. No, perché con questa forse avevo vinto una puntata. Ah, beh, sì, su no, Napoli, carina, sì, carina, molto carina. Vabbè, però era tutta legale, sceneggiata, sì, perché comunque vabbè, ovvio, portavo poi un po'. Bisogna saperle raccontare. No, Bramieri Docet. Sì, noi non ci abbiamo fatto vero. 3 anni con mio fratello, con l'Allegra Brigata. C'aveva le pause, le triple, le quadruple pause, riusciva, ma i tempi, era fabulare, quando dice persona ecco, meravigliosa. Non ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo, ma presto. Io lo ammiravo perché comunque raccontare le barzellette è un'arte, è un'arte. E quando ti dicono oggi magari che io scrivo spettacoli, faccio teatro, faccio televisione, quella che raccontami una barzelletta, è come se fosse screditante. Invece esatto, secondo me quando lo dicono una barzelletta quando è raccontata bene è bella. Noi abbiamo la fortuna, è stato il nostro startup della nostra carriera, lui venne a vederci a teatro, raccontata a Giacobbe all'Allegra Brigata, chiamo Garinei e ci vollero con loro al GB Show su Rai 1, ma parliamo di 34 anni fa. Io ho una grande capacità di improvvisare, quindi mi diverte quello, perché c'è una sorta di cogli l'attimo, per forza, di canovaccio dello spettacolo, ma ogni sera con un pubblico diverso io mi diverto in maniera diversa. Eh sì, perché cambio. La reazione sì, diventa un rapporto senza, non è la quarta parete, la quarta parete è distrutta, in quel caso la quarta sì, parete è il muro ideale che separa la platea dal palcoscenico. Tu hai lavorato pure con l'Aventura? Io ho lavorato con l'Aventura. A che gol? Sì, a cielo che gol ho fatto cielo. Sky, perché sono anche una grande tifosa del Napoli, quindi noi condividiamo delle sfumature di azzurro, ma la mia è pura, la tua no. La mia è bianca, un po' col bianco, sì. Si sporca un po' col bianco, vabbè, vai, siamo un po' parenti, dai. Non ti permettere, cugina alla lontana proprio. Va bello, bene, eccola, ecco. Non basta litiga con Valerio, con gli altri autori. Roma, beh, Lazio, eccetera. Voi Roma, Lazio, certo è complicato, da quando vivo a Roma, io vi osservo ridendo. No, è una vita d'inferno, sì, 28 derby. Radio della Roma, 38 della sì, Lazio, 16 di Roma e Lazio, cioè qui si vive soltanto di Roma e Lazio. Ma io se l'ho fatto mai in intervista, se ma la faccio da sola, Radio 24, non che c'è. Non sia sulla Lazio. No, esatto, diciamo, senti, allora, domenica, che facciamo? Ma non mi dici, che film hai doppiato ultimamente? Dove sei a teatro? No. Che peccato, sei tanto simpatico. Vabbè, perché ma sei identificato come sì, un grande tifoso laziale. Sì, ma no, integralista islamico, no, cioè sono un tifoso. Sì, dovrebbero intervistarti come padre, ma che sei eccezionale anche come papà. Quello lo posso un dire. Tripapà. Però tu lavori per radio, diciamolo, insomma, io si può lavoro, fare pubblicità. Si può fare, sì, a parte può che fare, lo sanno perfettamente. Io lavoro ad RTL 102.5. New hit, new hit. Non cantare.

sei Sebastian Torres, a questo punto tu devi fare da portavoce e presentare i tuoi amici, i tuoi colleghi. Allora presentatevi, tu non, l'unico non delle Marche, ma sei siciliano. Sì, esatto, Gaetano Guardino, Sicilia, Sciacca. Sciacca, si presenta. Io sono Antonio Sciarrillo, d'Ancona. Ditemi cosa suonate però nel gruppo. Sì, ecco, tu... chitarra. Chitarra, no? Io sono pianoforte. Pianoforte. Davide Uncini alla tromba. Alla tromba. Zannini Luca, batteria. Batteria. Io Simone Castracani, basso. Basso. E tu e Sebastian Torres voce. Alla voce. Però io mi ascolterei una cosa. Voi mi avete portato e Valerio già scatta sull'attenti e vorrei ascoltare. Che cosa ascoltiamo? Dei tre brani che mi avete mandato. C'è Amapola. Amapola, Il Chinete e Triste Camino. E Triste Camino. Ascoltiamo tutte cose. Amapola. Amapola? Ci siamo, dai. Valerio, su Amapola? E allora mandiamo per far sentire. Eccolo. De tu reja, mi amor, escuché tu triste queja, mi amor, que sonó en mi corazón, diciéndome así con tu dulce canción, amapola. Siempre mi alma tuya sola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Mi ricorda un po' la colonna sonora che c'era in C'era una volta in America. Sergio Leone. Cosa hai fatto in tutto questo tempo, Noodles? Sono andato a letto presto. Infatti l'ho presa dall'ala. Lo stimolo? L'avevo sentito, era un brano bellissimo che poi sono andato a ricercarlo e risulta che era di questo compositore spagnolo. E certo, allora a quel punto ho detto, è intonato, questa... sei sudamericano ma va bene, sì, accettiamolo come se fosse uno di voi. Come nasce questo sodalizio artistico? Chi mi parla di questo? Come vi siete incontrati? Dove? Con Sebastian abbiamo iniziato, ci siamo conosciuti al Conservatorio di Fermo perché tutte e due... Io credo che voi abbiate studiato tutti veramente, no? Non avete fatto corsi per corrispondenza, non avete fatto scorciatoie di talentato, voi siete dei grandi professionisti e anche solisti. Sì, cioè ci siamo conosciuti ecco a Fermo, da lì abbiamo pensato di proporre un progetto musicale nuovo. Abbiamo iniziato in duo in realtà, quindi abbiamo lavorato in duo sia in Italia che all'estero e dopo abbiamo proprio pensato a allargare e quindi creare atmosfere. Insomma, a Fermo è nata una cosa in movimento, ecco. Esatto, questa esatto. È una cosa incredibile, il contrasto. Esatto. E poi l'incontro con gli altri come sì, è stato? Deve essere un annuncio sul giornale, cercasi amante di musica sudamericana di riarrangiare. Voi siete... Dopo praticamente Simone no, ha contattato tramite... Siamo tutti amici, quindi ecco... Vi conoscevate già come ci professionisti. Sì. Ci conoscevamo. Esatto. Ve l'avete lasciati ognuno dal suo gruppo, dalla sua storia d'amore musicale, che nasce più o meno così. Sì. Non sì, so sì, come sì. Dirlo agli altri, ma sapete, ho trovato la mia strada. No, tutti, tanto nell'ambiente marchigiano più o meno ci si conosce un pochettino tutti, nel senso è un ambiente che rimane molto circoscritto. Qui sì, vabbè, non è che siete 22, no, cioè siamo 22, ma anche insomma è una regione però abbastanza che densa. Sono 25, insomma. Cioè, addirittura, beh, ti dici dalle Marche è difficile. No, comunque da collaborazioni che c'erano state in passato, io per esempio suonavo con Simone in un tributo di musica rock, facciamo un tributo Queen anni fa. Beh, avete sdirazzato, vanno proprio modificato la vita questi due. Sì, io suonavo con Simone in un trio jazz, quindi anche se sente molto Simone alla sordina. Comunque isterico musicalmente, che mi passa da solo musicalmente. Anch'io suonavo con Simone. È tripolare. Sì, tu che facevi? Allora, lui suonava con Simone e faceva un tributo ai Queen. Tu suonavi con Simone e già un tributo jazz. Tu suonavi con Simone e faceva Orietta Berti, che non mancava. Sì, ma comunque sì, è il centro del mondo, capito? Abbiamo fatto dal dal pop classico al rock indie, un po' tutto indie anche. Ma alla fine lo bello era quello, che la mescolanza di tutto, è perché la multietnicità. Io volevo portare il Messico che conosco io, i brani che conosco io, che originalmente sono anche diversi, e poi mescolandolo con diversi generi, uno che ha studiato jazz, uno più classico, altro di tutto, e fa questa fusione. Il Messico poi è molto particolare, insomma, una musica che sembra allegra, si parla di morte ogni due secondi. Sì, è una musica secondo me. Quello fanno voi il tributo, la festa dei morti per voi la gioia infinita. La gioia di Simone. È una musica molto, secondo me, anche molto d'onore, molto che parla, no? Molto caliente, no? Quindi noi abbiamo sfruttato la tradizione messicana e abbiamo soprattutto curato gli arrangiamenti per dare un senso di modernità. C'è il jazz, c'è il moderno, è bello, però potete anche allargarvi da questo sistema. Nel senso, avete visto come va di moda la musica lirica, cioè il cantante lirico italiano, fra virgolette, poi comunque sudamericano. Sì, poi noi abbiamo la... Comunque sono italiani, cioè comunque la Garra Docet in questo, cioè lo sappiamo che siete tutti italiani. Sì, poi noi abbiamo... Argentina, Messico, quanti italiani? Tutti. Tu ti chiami Torre, veramente, in realtà. Poi Torre... Ho visto di Torre, sia a Lenamara che c'è Torrezzi, dunque... Sì. Aggiungi un S, un A. Ma secondo me c'è un bisnonno. Sono marchigiano. Anche secondo me tu ce l'hai, come tutti i calciatori, se trovo il nonno italiano in qualche modo, tranquillamente. Per cui, sai, anche secondo me, o solo il mio, ricantato con questo tipo di orchestrazioni può essere funzionale, anche per... No, per già così è internazionale, però sappiamo perfettamente che una voce lirica, che per antonomasia racconta una musica che è italiana, cioè comunque la lirica è in lingua italiana, no? Non è... esatto. Per cui abbiamo questa fortuna, ci dimentichiamo cosa abbiamo costruito nel mondo. La patria del beccanto, l'arte, eccetera. Ce lo dimentichiamo. Non dobbiamo mai dimenticare ciò che di bello abbiamo portato nel mondo. Tante cose, anche Al Capone. Cioè, abbiamo portato tutto. Andiamo da Al Capone a Frank Sinatra con una grande elasticità, da Robert De Niro a Joe Valaci, insomma, a Don Vito Corleone. No, poi lasciami dire, insomma, abbiamo avuto almeno personalmente, penso anche di parlare per gli altri musicisti, la fortuna e l'onore anche di aver conosciuto Sebastian e di poter accompagnarlo. Poi sei stato il promotore, certo, magari è stata quella cosa che mancava, la scintilla che mancava. Assolutamente. Come hai visto, insomma, abbiamo tutti noi un'estrazione differente. Io personalmente ho studiato classico. Certo. Chi ha fatto chi la si base è quella. La base comunque. Cioè, questo è come per recitare: fai l'attore comico? No, tu fai l'attore. Certo. Poi fai l'attore comico, fai l'attore drammatico, fai l'attore ironico, fai quello che vuoi, ma devi avere questa pasta. Deve essere la base, è classica, per forza, come i grandi gruppi prog degli anni 70. Parliamo di gente che ha due palle così, della PFM, del Balcolmo Soccorso, per parlare dell'Italia, delle Orme, di tanta gente, degli Area, eccetera. Cioè, la musica prog è veramente gente che ha fatto non l'Accademia, di più, ha fatto Santa Cecilia, Sant'Armando, Sant'Antonio, tutte la... tutti, non è quello, per cui era importante. Signori del quartet, non siete del quartet, siete un quintet, siete italiani, perché sempre, c'è sempre un quintet orchestra, eccetera. Invece, Sebastian, ciao Sebastian Torres, in bocca al lupo, tanta merda che si dice anche dalle tue parti, caro Davide, caro Gaetano, Antonio Simone e Luca, in bocca al lupo. Vogliamo dare i collegamenti della nostra pagina Facebook. Esatto, è vero, bravo. Siamo chiaramente su Facebook con la pagina Sebastian Torres e commerciale The Italian Orchestra, e sul nostro sito internet, dove sono disponibili anche i brani che abbiamo ascoltato oggi, torresitalianorchestra.it. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Meglio di Voice Anatomy dell'anno, ma niente paura, eh? Domenica prossima saremo ancora qui per riascoltare altre chicche della stagione. A presto, signori miei. Apparteniamo a una comunità di viaggiatori in cerca di luoghi sconosciuti, tutti da scoprire. Un'Italia fatta di borghi antichi, di bellezze naturali e meraviglie architettoniche. Viaggia con noi per ascoltarne la storia e respirarne l'atmosfera. Radio 24 e Touring Club Italiano ti portano in alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Ogni settimana in onda nel Sabato del Villaggio. Il sabato dalle 15 su Radio 24. Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, nuova stagione per Globetrotter 24. Per il terzo anno consecutivo io e Valeria vi racconteremo cosa hanno in serbo per l'estate spiagge e mete turistiche della penisola. Vi riproporremo anche alcune interviste su destinazioni all'estero. Dunque cominciamo, vi daremo dei consigli anche su un weekend lontano dalla città, se restate in città, oppure un weekend con i vostri bambini. Cominciamo subito con il mare, con una delle mete italiane più belle e forse ancora un po' sottovalutata, la Riviera del Conero. Da Ancona a Porto Potenza una infinità di proposte. I comuni della Riviera si sono alleati, per così dire, hanno creato una associazione per la promozione di tutti questi borghi che sono tra i borghi più belli d'Italia. Massimo Paolucci è il direttore marketing dell'associazione e allora sentiamolo al microfono della nostra Valeria. Questa associazione è nata nel 1963, nata come consorzio, poi sistema turistico. Ora è un'associazione turistica formata da 16 comuni, di cui 4 sulla costa e 12 nel primo entroterra. E quest'anno è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come distretto turistico. Noi ci occupiamo prevalentemente di promozione, ovviamente, ma anche di accoglienza. Siamo in una parte dell'Adriatico, secondo noi, che si diversifica da tutto il resto, perché c'è il Monte Conero, questo monte verde che ha picco sul mare, dove c'è un parco naturale, quindi con 18 sentieri tutti percorribili in mezzo al verde, e a ridosso sul mare delle calette selvagge affascinanti che offrono uno scenario completamente diverso da tutto il resto dell'Adriatico, ad eccezione fatta per forse la Puglia, che però sono molti chilometri più in giù. Il valore aggiunto di questo territorio, secondo noi, sta nel fatto che oltre la natura e il mare, entro pochi chilometri, diciamo in un raggio di 30 chilometri, ci sono le colline, che noi definiamo le colline dell'infinito, legate ovviamente a Giacomo Leopardi, perché appunto in ogni collina c'è un borgo che ha una storia antichissima, e quindi troviamo la Basilica di Loreto, troviamo il borgo di Potenza Picena, di Osimo, di Castelfidardo. Castelfidardo peraltro la patria, posso dire, mondiale delle fisarmoniche. C'è il capoluogo di provincia Ancona, c'è la terra dei castelli con Offagna, con una bellissima rocca, e Montefano, Filottrano, famosa per la produzione di abiti. Diciamo che l'offerta è molto diversificata, quindi non è che si viene solo al mare. No, e anche in bassa stagione, insomma, le attività sono tante. D'estate si può godere il mare magari la mattina, però approfittare del pomeriggio per godere il fresco magari di questi borghi, dove peraltro si organizzano dei eventi anche di spessore interessanti. Dottor Paolucci, mi dica, se io ho una famiglia con figli di diverse età, perché dovrei scegliere il Conero? Che cosa trovo in più da voi? Se viene durante l'estate, ovviamente il mare è è l'attrazione per eccellenza, e avendo una famiglia con bambini, oltre le spiagge selvagge del Conero, dove ci si arriva magari con il traghetto, o a noi piace molto arrivarci in kayak partendo dalla bellissima baia di Porto Novo, o i sentieri del parco magari, e la famiglia però può trovare delle spiagge molto comode, con lungomari pedonabili, ad esempio il lungomare, bellissimo lungomare di Porto Recanati, o Potenza Picena, dove riescono a avere sabbia fine, mare basso, i bambini sono protetti in questo bellissimo lungomare e i ragazzi più grandi hanno a disposizione decine e decine di locali che organizzano delle feste serali, qui è pieno di giovani, insomma, quindi poi ci sono villaggi con animazione. Penso che il turismo familiare rappresenti, secondo me, l'80% delle nostre presenze turistiche, quindi insomma abbiamo le caratteristiche idonee per ospitare famiglie. E dal punto di vista dei prezzi, quindi se appunto una famiglia, diciamo, si sposta, magari sono 3, 4, 5 persone, diciamo che una vacanza comincia a essere costosa, non solo per, diciamo, il dormire, ma anche poi per tutto il resto. Voi in che fascia vi posizionate, o se ci sono offerte di vario genere per cui uno si può anche orientare da cose più costose a cose un po' più abbordabili? Noi puntiamo nel turismo di qualità, cerchiamo di offrire una vacanza autentica. Non vogliamo i numeri, ma la qualità del turismo. Non voglio dire che questo si traduca in prezzi più alti, perché la nostra associazione ha al suo interno 638 strutture ricettive diversificate per tutte le tipologie, dall'appartamento, dall'affitta camere ad arrivare all'hotel 4 stelle. E quindi la fascia di prezzo è molto varia. Io penso che non si tratta di un problema di prezzo, ma più che altro della scelta di una vacanza autentica e godere della natura. Per noi, soprattutto noi italiani, la conoscenza di un posto talmente bello in Italia, e il Conero sicuramente va visto ed è un'esperienza che va vissuta. Sì, perché magari uno fa riferimento, comunque conosce il mare, sa che lì è una bella zona sulla costa, però forse ignora tutto quello che c'è un po' più indietro, come appunto ci raccontava prima, nelle colline, tutti i borghi da vedere, da visitare, da scoprire. Sì, cioè, ad esempio d'estate si può andare ad Offagna e tornare nel Medioevo con le feste medievali, andare a Castelfidardo dove c'è... si può ascoltare proprio il suono della fisarmonica, c'è un museo della fisarmonica, c'è un festival internazionale della fisarmonica, arrivano da tutto il mondo. Ad esempio a Porto Recanati c'è la settimana del brodetto, il brodetto portorecanatese, che ha ricevuto numerosi premi, si differenzia per un particolare tipo di erba che viene aggiunta ed è buonissimo, e tutti i ristoranti hanno un prezzo convenzionato. È un'occasione per assaporare l'enogastronomia legata strettamente al vino, che è il Rosso Conero, e quest'anno compie il 50° anno del DOC, e ci sarà una festa a Camerano fino a agosto, inizio settembre appunto, dove si può assaporare il Rosso Conero delle numerose cantine che ci sono. Si può anche fare un tour della via del Rosso Conero. A proposito di iniziative, adesso abbiamo parlato di una iniziativa enogastronomica. Ci sono altre segnalazioni per luglio e agosto che possiamo fare per invogliare ulteriormente le persone a venire da voi? Per quanto riguarda l'enogastronomia, il punto di forza è quello che noi qui chiamiamo il mosciolo, la cozza. Però è un mosciolo, secondo noi, eccezionale, perché è selvatico, viene pescato in un mare cristallino, cucinato come va fatto, come noi marchigiani sappiamo fare. Si può legare al verdicchio, vino tipico marchigiano. Soprattutto i turisti esteri gradiscono particolarmente poi la cena direttamente in spiaggia, al tramonto del sole, ed è un'esperienza unica, insomma. E poi c'è qualcos'altro, non so, qualche evento musicale o qualche evento culturale in particolare che possiamo segnalare per quest'estate? Ci sono delle mostre, ad esempio ad Osimo ci sono i capolavori sibillini, tutte le opere che sono state raccolte dai Monti Sibillini, portate ad Osimo, ed è una bellissima mostra da visitare. E Ancona è un museo a cielo aperto e il centro storico assolutamente da visitare, e penso che sia sconosciuto ai più, ed è un peccato perché è una visita culturale assolutamente da fare. Ci sono circa 750 eventi programmati per quest'estate. L'Arena di Porto Recanati ha previsto una serie di appuntamenti importanti. A Recanati c'è il Gigli Opera Festival dedicato a Beniamino Gigli, che dura tutto il mese di agosto. È un po' difficile, in poche parole, insomma. Certo, sintetizzarli tutti. Ma sul vostro sito avete un calendario che si può magari visionare per capire se c'è qualcosa di particolare interesse? Sì, abbiamo un calendario unico eventi che raccoglie tutti quanti gli eventi ed è sempre aggiornato. C'è tutta la programmazione fino a settembre. Il sito è rivieradelconero.info. Invito anche a seguire i nostri profili social, dove informiamo di tutte le esperienze che si possono vivere in questa parte dell'Italia. Luoghi incantevoli per chi a luglio è rimasto invece in città e vuole far trascorrere un weekend speciale ai propri bambini, può portarli per cantine nelle Langhe. Non datemi nella matta, il vino non è una cosa solo da grandi. Il suggerimento è di fargli conoscere meglio l'uva, l'esperienza della vendemmia, i segreti del processo di vinificazione. Per questo ormai da qualche tempo diverse cantine delle Langhe si stanno attrezzando con corsi e giornate speciali proprio dedicate alle famiglie. Per informazioni c'è il sito langhe.net. Se poi siete in zona, a metà luglio non dovreste perdere il Collisioni Festival a Barolo dal 14 al 27 luglio. Ormai è diventato un punto di riferimento e non solo nel panorama musicale. Incontri, dibattiti su arte e letteratura, anche in questo caso vi segnaliamo il sito che è collisioni.it. Termina qui questa puntata di Globetrotter 24. Alla prossima!